viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mito il fondo il giubilo. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mito il fondo il giubilo. Viva il vino che sincero e ci anieta ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenero. Sincero, e ci anieta.